Assolutamente magnifica. D'altra parte, se non prendono te, crei la coscia lunga. Ma le gambe a me piacciono di più. E noi abbiamo tirano le gambe. Però. Vedi, però sei molto intelligente. Ma le gambe sono belle ancora di più. No. Le gambe che fanno Giacomo Giacomo, non ho mai capito perché Giacomo e non Pierino. Mi vedi normale tu? Normalissima, perché? Mi sto perdendo qualcosa? Ti tremano un po' le gambe, le mani? Mi tremano un po' le gambe. Ma le gambe sono belle ancora di più. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri. Migliore? Sì, più forte, più veloce. Da 6 milioni di dollari, ve lo ricordate, era una serie televisiva che ebbe un grande successo negli anni 70. Il protagonista, questo colonnello Steve Austin, a causa di un incidente durante una missione, perde le gambe, il braccio destro e l'occhio sinistro, che però gli vengono sostituiti con protesi bioniche, grazie alle quali il colonnello acquisisce però capacità eccezionali. Negli anni 70 era fantascienza, oggi la possibilità però di sostituire pezzi del corpo è una realtà. Ho letto che gli scienziati sono in grado di copiare il 70% del nostro organismo, ma la ricerca continua e la sfida è produrre protesi bioniche o pezzi di ricambio sempre più simili all'originale. I risultati non mancano. Come anticipate di questi giorni, la notizia della creazione di questo orecchio bionico, sensibile ai suoni come un orecchio vero. La promessa arriva da uno studio preclinico, e lo sottolineo, di un gruppo di ricercatori di un'università australiana, che sono riusciti a potenziare la sensibilità uditiva dell'apparecchio acustico utilizzando al momento stesso dell'impianto la terapia genica, che stimolando, diciamo così, la rigenerazione di fibre nervose dei nervi acustici permetterebbe di migliorare l'innesto dell'impianto e soprattutto la sua funzionalità in termini di percezione. Se tutto procede bene, quindi presto avremo a disposizione impianti cocleari, così si chiamano gli impianti acustici oggi utilizzati sui pazienti con sordità profonda, molto simili all'orecchio vero. Questo, cari amiche, cari amici, è quanto si legge, ma sentiamo il parere di un esperto, il dottor Sandro Burdo, medico, audiologo e consulente audiologo degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. Dottor Burdo, buongiorno. Buongiorno a lei. Dottor Burdo, lei ha all'attivo più di 1400 impianti cocleari. Gli impianti cocleari sono dispositivi che sostituiscono la coclea, che è l'equivalente per l'orecchio di quello che è la retina e per l'occhio, diciamo così in modo semplice, quindi è la regia un po' dell'udito. Certamente, è l'organo in realtà che ci fa sentire, come la retina è l'organo che ci fa vedere. Lei cosa ne pensa di questa integrazione con impianto e terapia genica, questo mix? Sì, sì, allora il problema degli impianti è che poi alla fine noi sostituiamo la coclea, ma in alcuni casi le terminazioni nervose che vengono stimolate dalla nuova coclea sono mai compromesse, perché magari sono rimaste nel silenzio molto tempo. Iniettando dei fattori di crescita, e qui vale la pena ricordare che i fattori di crescita sono stati il motivo per cui la nostra Rita Levi-Montalcini ha preso il premio Nobel. Iniettando questi fattori di crescita contemporaneamente alla stimolazione elettrica, non solo cambiamo la coclea, ma diciamo facciamo rigenerare un pochino quelle terminazioni nervose che si erano un po', diciamo, dissolte. Quindi, insomma, è un'integrazione. È un'integrazione, assolutamente un'integrazione, che, attenzione, non tutti i pazienti hanno problemi di questo genere. Cioè, noi abbiamo pazienti diventati sordi da poco, quindi i quali con l'impianto cocleare sentono perfettamente come noi, proprio perché le loro terminazioni nervose non hanno subito delle degenerazioni. Chi invece è sordo da molto tempo ha avuto malattie particolari, oltre a un problema di coclea ha anche un problema di conduzione neurale. Ora, in questi casi avere a disposizione un sistema di questo genere, che non solo stimola elettricamente ma favorisce la rigenerazione neurale, direi che è un ottimo avanzamento dal punto di vista tecnico e dal punto di vista clinico. Orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. Attesa che l'orecchio bionico diventi realtà, se siete portatori di protesi acustiche, chiamateci a partire dalle ore 12. Nella seconda parte della trasmissione affronteremo anche gli aspetti relativi ai costi di questi dispositivi, alle qualità delle offerte che ci possono venire proposte, anche e soprattutto ci concentreremo sulle modalità per ottenere l'esenzione dal pagamento quando è possibile, oltre naturalmente alla detraibilità dalle tasse. Insieme al dottor Burdo, che anticipo rimane con noi sino alle 12.30, e alla dottoressa Sabrina Nardi, vice coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva, vorremmo affrontare anche un'anomalia tutta italiana e vogliamo naturalmente chiedere il vostro aiuto. Si tratta del nomenclatore tariffario, è un listino di articoli di prezzi, per dirla in modo semplice, relative a protesi e ausili a cui si ricorre in caso di invalidità. Il problema è che i prezzi non vengono aggiornati da 15 anni e paradossalmente si rischia di pagare attrezzature il cui prezzo di mercato è ormai considerevolmente sceso. Ne parliamo a partire dalle 12.10, quindi 800 24 00 24, ma insieme al dottor Burdo, come anticipato, vorremmo occuparci dei problemi che quotidianamente il nostro orecchio deve affrontare. Dottor Burdo, noi abbiamo anticipato la creazione di questo orecchio bionico, però devo dire che negli ultimi anni i progressi della terapia chirurgica e della tecnologia contro la sordità sono stati straordinari, tanto che ora è possibile restituire l'udito a quasi tutte le persone che l'hanno perduto. Ma come sempre occorre intervenire molto presto, prestissimo, subito dopo la nascita nei bambini o comunque entro i 2 anni di vita, vero dottor Burdo? Noi poniamo come limite per il sordo congenito i 18 mesi, quindi limite per ottenere la normalità. Questo non vuol dire che se lo facciamo a 36 mesi non abbiamo buoni risultati, attenzione, però per raggiungere la normalità, diciamo che la sicurezza la possiamo avere se interveniamo chirurgicamente prima dei 18, ma in ogni caso dal punto di vista riabilitativo, sì, già dalla nascita. Quindi subito dopo la nascita. Entro i sei mesi va gestito, entro i 6 mesi di vita va gestito. Per gli adulti invece, dottor Burdo, più che arrivare presto a giocare d'anticipo, non bisogna arrivare tardi, perché noi sappiamo che gli anni minano la salute del nostro udito, è fisiologico, no? Un po' come succede per la nostra vista, intorno ai 45-50 anni iniziamo a diventare presbiti, anche se la presbiopia non può essere considerato un difetto refrattivo, e più o meno nello stesso periodo si manifesta l'ipoacusia, ci sentiamo un po' di meno. Diciamo, abbiamo fatto il paragone tra retina e coclea e continuiamo questi paragoni tra occhio e orecchio, diciamo che l'ipoacusia è per le nostre orecchie quello che la presbiopia è per i nostri occhi. Il messaggio però che deve arrivarci forte e chiaro è che non fare orecchie da mercante, perché ci sono dei segnali che non vanno trascurati e che noi cerchiamo invece di non sentire o di sottacere. Vogliamo ricordarli, dottor Burdo? Ah sì, il concetto importante e fondamentale è che le orecchie si possono cambiare quando vogliamo, il cervello no. Quindi se noi perdiamo la memoria uditiva, perdere del tempo poi non fa altro che creare dei problemi nel momento in cui aiutiamo l'udito. Se noi aspettiamo troppo a intervenire, il nostro cervello non è più in grado di decodificare, di utilizzare correttamente gli stimoli acustici. Quindi la precocità è fondamentale. E quali sono i sintomi? Sì. I sintomi sono soprattutto la difficoltà di ascolto quando ci sono più persone che parlano, e li vediamo queste persone con lo sguardo un po' perso o con il sorrisino un po' come si può dire, dico inebetito per non offendere nessuno, spero, però sono le persone che non partecipano attivamente alle conversazioni quando ci sono più persone che parlano. Sì. La seconda difficoltà è quella della televisione, non tanto del telefono, l'ascolto della televisione, perché sia per questioni acustiche, sia per questioni di comunicazione, non c'è interazione con chi parla dall'altra parte dello schermo. Mm-hmm. Ecco, in questi casi il paziente, chiamiamolo paziente, anche se lui non ama definirsi tale, ha sicuramente delle difficoltà. Allora, questi sono campanelli d'allarme che ci devono indurre a fare una visita, e attenzione, ma dobbiamo aggiungere anche un sintomo importante, che è quello degli acufeni. Cioè, il sordo, l'orecchio scassato, per definizione fischia, ma di questo mi dirà lei. Assolutamente, di questo insieme alle vertigini parleremo nel corso della nostra trasmissione. Lei l'aveva anticipato più volte nelle nostre trasmissioni, l'acufene è un segno di ipoacusia, anche se non è l'unico naturalmente, ma sentiamo, quando diciamo acufene, che cosa vogliamo significare? Che senso ha parlare di acufene se non possiamo sentirlo anche noi che non lo conosciamo? Andiamo. Fischi, ronzii, cascatelle, così le persone che soffrono di acufene descrivono il loro problema. Dottor Burdo. Come lo descrivono? Lo descrivono come un rumore estraneo e molto disturbante, perché è un rumore che noi non vogliamo ascoltare e che ci viene prodotto dal nostro orecchio, perché mancando la coclea non c'è più quel vincolo, quel controllo sull'attività nervosa, e i nervi sparano per i fatti loro. Pensi all'arto fantasma, dove sì, una persona a cui viene tagliata una mano sente ancora la presenza della mano, perché le terminazioni nervose conducono ancora la sensazione. Ecco, chi ha un deficit cocleare, chi ha un problema cocleare, la coclea non controlla più l'attività del nervo acustico, spara per i fatti suoi e quindi produce delle sensazioni uditive. E le sensazioni uditive possono essere più svariate. Alcune sono tipiche di alcune forme di sordità, cioè possono essere dei fischi, possono essere dei fruscii, possono essere una serie di tonalità, possono essere dei suoni, ad esempio, sincroni con il battito cardiaco. Esatto, questo è un quanto mi descrive anche un ascoltatore, sente nell'orecchio il battito del suo cuore. Sono sempre acufeni? Allora, questo può essere o l'effetto di una sordità, ma possono essere anche due fatti importanti. Il primo, che la vascolarizzazione del timpano viene percepita dalla coclea, e ovviamente se un timpano è infiammato può produrre delle pulsazioni legate proprio all'infiammazione che vengono percepite, quindi può essere un segno di irritazione timpanica, ma sì, può essere anche una patologia un po' più seria, dove sull'orecchio arrivano sia la giugulare che la carotide, e la giugulare, che è la vena principale che entra nel cervello, che quindi produce il deflusso del sangue dal cervello verso il cuore, fa una specie di curva nel pavimento dell'orecchio medio, e se questa curva, il setto osseo che separa la giugulare dall'orecchio medio, è compromesso, noi sentiamo la pulsazione proprio perché ce l'abbiamo dentro l'orecchio, certo, nel vero senso della parola. Quindi bisogna fare una visita, si chiama timpano blu, quello che si vede oggettivamente, cioè l'otorino esperto con l'otomicroscopio riesce a riconoscere attraverso la membrana timpanica un'ombra blu, che è la giugulare che si è esposta, come un'ernia per intenderci, che si è esposta all'interno dell'orecchio. Rarissimo come patologia, però da tenere presente. Abbiamo in linea con noi Tommaso che ci chiama da Ortona. 800240024, continuate anche a scriverci al 349-238-6666 e come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Tommaso, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi richiamato. Senta, io vorrei fare... vorrei fare una domanda al dottore. Sì. Sì, io soffro di ipoacusia acuta bilaterale dovuta a 40 anni di lavoro in laboratorio di meccanica. Sì. Prendo un integratore e trovo dei benefici. voglio sapere se posso prendere in continuazione questo integratore o devo fare delle pause. Grazie Tommaso. Dottor Burdo. Patologia del rumore in realtà è una patologia cronica, nel senso che si diventa sordi perché si somma l'esposizione al rumore nel tempo. Gli integratori, secondo me, in questo caso sono dei farmaci che producono degli effetti anche molto soggettivi. La sordità, e non solo la sordità, soprattutto gli acufeni hanno una componente emotiva che può essere modificata anche dall'uso di determinati farmaci. Qui non è un tanto un problema specialistico dare il consiglio, quanto un problema del suo medico generico che conosce la situazione generale del nostro Tommaso. Certo. Senta, dottore, caso consiglia per il meglio. Allora, dato che anche dalle descrizioni che mi arrivano via SMS di questi fischi, ronzii, cascatelle, sibili, sembra che ci siano tanti acufeni diversi, io vorrei che lei ci aiutasse a un po' fare capire di più di quello che noi, di questo suono che molte persone, sembra il 10% della popolazione, avverte all'interno dell'orecchio. Allora facciamo finta che io entri nel suo ambulatorio e le dica di avvertire questo problema, questi ronzii, questi fischi. Lei che cosa mi chiede? Quali sono le domande che mi permettono di, non dico fare autodiagnosi, questo lo sottolineiamo sempre, ma di inquadrare un po' il mio problema, di dargli qualche caratteristica in più da poter anche riferire al medico e quindi di aiutarlo a fare una diagnosi. Certo, le caratteristiche sono soprattutto l'insorgenza e la localizzazione. L'insorgenza, quando è insorto? Se è insorto improvvisamente, ad esempio al mattino mi sono svegliato, ho sentito l'orecchio tappato e un forte fischio. In questo caso questo è il caso tipico di quella che si chiama una sordità improvvisa, generalmente di origine virale. Sì. La localizzazione, cioè quale orecchio è colpito, se uno, due oppure contemporaneamente entrambi. Alcuni addirittura hanno una prevalenza di un orecchio, li hanno da entrambi gli orecchi, ma prevalente su uno. Sì. Il tipo di rumore, il tipo di acufene, se è un sibilo, ad esempio il sibilo è tipico delle crisi ipertensive. Il paziente che conosce bene il proprio stato di salute, si misura la pressione tutti i giorni, nel momento in cui sente veramente un fischio acuto, dovrebbe misurarsi subito la pressione, perché questo potrebbe essere il segno di un incremento della. Quindi qua già ne siamo venuti a casa di una. Se sentiamo il sibilo, controlliamo la pressione. Sì, assolutamente. Soprattutto chi è in terapia. Perché questo è uno dei sintomi principali di una crisi ipertensiva. Il motivo è semplice, perché la carotide passa dietro la coclea. Sì. E quindi è come un ruscello che aumenta la sua portata. Se lei dorme vicino a un ruscello, nel momento in cui il ruscello si ingrossa, sente lo scorrere dell'acqua molto più violentemente, è molto più intenso. Così l'aumento della pressione sanguigna vicino alla coclea la sentiamo. È come aprire un rubinetto dell'acqua improvvisamente e al massimo. Se io riesco a mascherarlo, il mio acufene, cioè se sento, se accendo la radio o mi addormento con la televisione accesa, questo disturbo si spegne. Ha un'indicazione per lei, dottor Burdo? Allora, l'acufene, generalmente il mascheramento non è che elimini un altro rumore, non lo elimina, come ha detto giustamente lei, lo maschera. Meno male, dottor Burdo, l'ho detta giusta? Ci va sopra. Sì, assolutamente, ci va sopra. E quindi questo è un ulteriore concetto importante da tenere presente, perché in alcuni casi, sì, ripristinando l'udito, se non nella maggioranza dei casi, è chiaro che utilizzando l'udito, cioè i suoni della vita, per intenderci, quindi sentendoci di nuovo, riusciamo a mascherare l'acufene. Allora, occhio ai sibili, ipertensione, ma l'acufene, dottor Burdo, potrebbe anche dipendere in qualche modo da come mastichiamo, dell'articolazione temporomandibolare? Allora, qui l'acufene vede come può essere di origine uditiva, quindi una patologia dell'organo uditivo, oppure può essere extra uditivo, venire da altri posti. Abbiamo citato prima l'acufene da ipertensione arteriosa. Sì. Non è l'udito che funziona male, c'è un rumore vero prodotto dalla carotide perché si è alzata la pressione. Certo, e l'orecchio è fatto per sentire, per cui rileva questo rumore. Ed è un rumore nostro interno, sì. Così come questo dell'articolazione temporomandibolare, perché c'è un legamento che dal condilo dell'articolazione temporomandibolare entra e si collega agli ossicini dell'orecchio medio, li mettono in trazione e questo provoca un acufene. Ne parleremo tra poco, quindi se avete il timore, il dubbio che il vostro acufene abbia qualche modo una relazione con l'articolazione temporomandibolare, restate con noi perché parleremo appunto con un esperto. Abbiamo tempo di salutare Pietro dalla provincia di Milano, mi dicono di sì. Pietro, buongiorno. Buongiorno. Eccola qua, prima dei mercati, se lei è breve riusciamo a darle anche una risposta. Volevo dire solamente che io sento il battito del cuore nell'orecchio, ho fatto una visita dall'otorino e mi ha detto che non è niente di serio, per cui se non è così fastidioso, perché in realtà lo sento solamente di notte quando dormo, prima di addormentarmi, poi non sento più niente. E di tenerselo. E di tenermelo, però sì, in volevo sostanza. Sapere se invece è una cosa importante fare degli accertamenti più approfonditi. Grazie Pietro. Fin quando sentiamo il cuore che batte, andiamo bene, dottor Burdo. Ma Pietro, vuol che dire, quale. Vuol dire che è attivo. Ecco, guai se così non fosse. Ma Pietro deve fare ulteriori indagini o ci fermiamo? Nel momento in cui l'ha visto l'otorino e ovviamente ha fatto una visita otomicroscopica, quello che le dicevo prima, per cui si riconosce la malattia seria che potrebbe essere si chiama glomo timpano giugulare, cioè la giugulare esposta nell'orecchio medio, e ripeto, un otorino specialista lo vede con l'otomicroscopio, sì. Non c'è motivo di allarmarsi. Può darsi che questo paziente abbia ad esempio una tuba beante, cioè il collegamento che va dal naso nell'orecchio. Sì, è un po' strettina. No, invece che essere beante significa che è troppo aperta. Troppo aperta. E quindi convoglia tutti i rumori, compreso il respiro, e ci sono queste persone che purtroppo, avendo questa tuba... Insomma, una tuba molto sensibile, diciamo così, che raccoglie tutti i suoni. Comunque Pietro si addormenta tranquillo, cullato dal ritmo del suo cuore, e sta sereno, e noi andiamo a sentire i mercati e torniamo serenissimi subito dopo insieme. Sentiamo i mercati. Cuore e denari. Vuoi vivere a vecchio senza ricette che qualcun altro ha prescritto, e poi starci un po' stretto, ma vivere a vecchio. Siamo tornati insieme al dottor Burdo, partendo dall'orecchio bionico, potrebbe arrivare tra breve. E quindi dare una soluzione a tanti problemi, a chi ha un problema di sordità profonda. Stiamo affrontando un malessere del nostro orecchio che può essere molto invalidante, come mi state scrivendo. Stiamo parlando di acufene, tra poco parleremo anche di un compagno dell'acufene, che sono le vertigini. Dottor Burdo, spesso i due problemi, a volte non spesso, possono andare insieme? Sì, perché il labirinto posteriore, che è l'organo che controlla la nostra postura, le nostre vertigini, è collegato al labirinto anteriore, cioè alla coclea, fratello sorella, quindi se si ammala uno si ammala anche l'altro, e spesso ad esempio quella che la gente comunemente chiama la labirintite, che noi chiamiamo la sindrome di Meniere, è caratterizzata dalla sordità, dall'acufene e dalle vertigini acute, la triade che caratterizza la sindrome di Meniere. Voglio leggerle, dottor Burdo, anche i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 per dare dei messaggi tranquillizzanti o delle indicazioni ai nostri ascoltatori. Giuseppe ci scrive che sente tambureggiare il timpano anche per l'intera giornata, come se si aprisse e chiudesse in continuazione. Ah, questo potrebbe essere una patologia rarissima, ma è possibile, che è un clono. All'interno dell'orecchio ci sono due muscoletti, si chiamano stapedio e tensore, che possano andare in clono, come sa quando balla l'occhio ogni tanto, sì, la palpebra, ecco, può succedere anche all'orecchio e quindi può avere un clono di quel genere. Non si fa nulla? No, si no. possono dare no, assolutamente dei farmaci, dei neuromodulatori o dei modulatori muscolari, chiamiamolo così, che, se per evitare che questi, la diagnosi, per evitare che questi muscoletti sì. ballino la rumba. Sì, assolutamente. Acufene peggiora con il lavorare con lavorando al computer, ci suggerisce Stefania. No, diciamo che la peggiora perché probabilmente a Stefania non piace molto lavorare al computer. Dice. La Stefania ha sempre una componente emotiva e quindi tutte le cose negative che noi facciamo poi le somatizziamo, diciamo così, sulla cufene, lo sentiamo più forte. Anche perché aumenta la concentrazione, al computer non ci sono altri rumori e quindi si è portati ad ascoltarlo. E infatti lo sentiamo spesso di notte nel silenzio. Eh sì. Giovanni ci scrive da Milano e ci dice che sente le pulsazioni all'orecchio sinistro, quindi monolaterale, solo quando è in posizione orizzontale, di solito la notte, ma dice che il suo setto nasale è più stretto a sinistra e ci chiede quindi se può essere una relazione. No, la relazione è molto probabilmente legata alla posizione della sua giugulare o della sua carotide, per cui in posizione orizzontale il flusso sanguigno è ovviamente leggermente diverso da quella in posizione verticale, quindi può produrre più o meno dei rumori. Andiamo a Nicola dalla provincia di Arezzo, buongiorno, per parlare di acufeni. Nicola, lei che cosa ha scoperto? Buongiorno a tutti, buongiorno, mi sentite? Sì. Bene, forte e chiaro. Benissimo, dunque io volevo... È una segnalazione e anche per comprendere se c'è una correlazione tra la mia acufene, credo che sia una acufene, che è perché è un sibilo che aumenta di intensità, diminuisce, ma c'è quasi sempre. Ma lei si è fatto controllare la pressione? Che il dottor Burdo ha detto sì, che spesso il sibilo è legato a un problema pressorio? Sì, sì, ma è sempre tutto a posto. Meno male, perfetto. Però volevo dirle due cose, spero che sia una delle due, almeno ho identificato la causa. Soffro di bruxismo sì. e ho notato che fumando quelle poche sigarette che fumo, sono 4-5 al giorno, ma nel momento in cui fumo aumenta. Aumenta il suo acufene? Il sibilo. Dottor Burdo, che Nicola ci dia un'indicazione preziosa? Ma questa del bruxismo poi ne parleremo. Sì, ma io relativo sì, che è già in linea con noi, che salutiamo, è il dottor Carlo Ghirlanda, medico dentista e segretario culturale dell'ANDI, che come sapete è l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Buongiorno dottor Ghirlanda, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei dottoressa, buongiorno al collega e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo subito buongiorno. Da lei perché la domanda di Nicola vi coinvolge entrambe, ma riguardo al fumo, dottor Burdo, ma fuma acufene? Anche questo sia un aspetto emotivo. Il paziente ha sottolineato che ne fuma solo 3 o 4. Però voi medici non credete mai ai fumatori, vero? Assolutamente, perché bisogna sempre moltiplicare per 10. E so com'è così. Beh, che bevono solo mezzo bicchiere di vino. No, 10 no, dai. Due. Per dire, siamo didattici e quindi lo vedo più come una tensione. Tra l'altro su un paziente, poi ce lo spiegherà il collega, che già lamenta del bruxismo. Dottor Ghirlanda, vengo a lei. Un causa dell'acufene potrebbe essere un problema all'articolazione temporomandibolare? Dunque sì, intanto stiamo parlando di disordini all'articolazione temporomandibolare, cioè sono dei problemi che riguardano tutta la componente muscolo-scheletrica del viso e che sono molto complessi da inquadrare in un singolo concetto, perché nel tempo si è un po' evoluta un po' la conoscenza e la considerazione di quello che sembrava inizialmente un fatto meccanico, cioè magari i denti sono posizionati male, quindi di conseguenza questo comporta un problema all'articolazione temporomandibolare. Questo tipo di concetto ormai è molto datato, è molto superato dalle considerazioni attuali e oggi ci si pone piuttosto il problema della natura di un dolore che interviene a livello della faccia, che interviene anche a livello dell'articolazione temporomandibolare, ma che richiede poi un approccio estremamente sofisticato di diagnosi differenziale. Il bruxismo, come l'ascoltatore riferiva, ma anche il serramento, sono quindi qualcosa di diverso dal bruxismo, ma che interviene nel corso della giornata, come ad esempio la domanda che poneva l'ascoltatore precedente, quella di serrare un po' i denti durante il lavoro, sono delle manifestazioni che più delle altre si evidenziano, ma anche l'acufene può essere una dei sintomi che sono correlati ad una più ampia dimostrazione in generale di disagio psichico, di disagio da stress, che spesso poi porta ad avere anche una componente dell'articolazione temporomandibolare. Dottor Ghirlanda, le è mai capitato che un suo paziente la coinvolgesse nel cercare una spiegazione al suo acufene? Cioè, è venuto mai da lei un suo paziente dicendo: dottore, io ho l'acufene, non sarà mica per un problema dei denti? E nel caso, lei che cosa ha fatto? Dunque, guardi, sicuramente sì, è una delle possibilità quotidiane che ogni odontoiatra, ogni dentista vede nel proprio studio. Guardi, bisogna essere molto, molto pragmatici da questo punto di vista. Il problema è bisogna chiedersi perché richiede un paziente un intervento da parte del proprio medico, del dentista in particolare. I motivi per cui bisogna intervenire nell'ambito dell'articolazione temporomandibolare sono due. Sì. Le limitazioni nell'apertura della bocca, uno apre tanto o apre poco, perché ci sono effettivamente poi delle motivazioni anatomiche alla base di questa maggiore o minore apertura legate all'architettura interna dell'articolazione temporomandibolare. E l'altro è il fatto che ci siano dei dolori ai muscoli della masticazione. Queste sono le due condizioni per le quali poi è opportuno intervenire. C'è una terza opzione, che è quella di sentire appunto gli acufeni oppure i rumori articolari, che sono i click, gli scrosci, i ronzii che spesso si hanno mentre uno mastica, però su quello c'è da fare un distinguo che diventa un pochino specialistico in termini di lettura. Quando noi abbiamo limitazione all'apertura della bocca e dolori muscolari più o meno ampi, allora a quel punto abbiamo l'indicazione di intervenire. Quando il riferimento nell'anamnesi del paziente, che diventa un fattore prioritario nella scelta poi del comportamento del clinico rispetto alla sintomatologia che viene riferita, evidenzia solamente un acufene rispetto alla quale noi non abbiamo né altri dolori né altre limitazioni o modifica della funzione, noi a quel punto dobbiamo fare un passo indietro e consigliare al paziente di valutare ulteriormente con l'ausilio di otorini, con l'ausilio di... Quindi un lavoro d'equipe, dottor Ghirlanda. Molto disciplinare. Voglio leggerle il messaggio di un ascoltatore che ci scrive che ha risolto il suo problema di acufeni mettendo un bite. Guardi, è possibile, ma il bite agisce in termini concreti semplicemente spostando dei vettori di forze. Adesso non voglio entrare nel fatto tecnico, però il bite di per sé non è la soluzione all'acufene, ecco, questo non vogliamo sottolineare. È sicuramente un sollievo ad una modifica della posizione muscolare, a una tensione muscolare che, se fosse con causa di quell'acufene, certamente risolve in parte il problema. Però ripeto, e vorrei che su questo non ci siano veramente fraintendimenti, la terapia del disordine muscolo-scheletrico a livello dell'articolazione temporomandibolare è una terapia multidisciplinare. Il dentista può intervenire per una quota parte, ma per il resto agiscono molto. Intanto il rapporto medico-paziente, che è fondamentale, perché noi dobbiamo ascoltare veramente il paziente per capire esattamente quali siano i suoi problemi, andando al di là del problema specifico medico che ci viene presentato. E poi, d'accordo con il paziente, reinquadrarlo in una più ampia modalità di risoluzione che, ripeto, spesso non coinvolge solo il dentista ma anche altre figure. Grazie, dottor Ghirlanda, per essere stato con noi. Le auguro una ottima giornata. Altrettanto a voi e a tutti voi. Grazie. Il dottor Burdo rimane naturalmente con noi, perché tra poco, come promesso, parleremo di vertigine. A volte va a braccetto con l'acufene e come l'acufene è invalidante, molto fastidioso. Restate con noi, 800 24 00 24. e denari. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te. E se siete vi siete fidati di me e avete chiamato l'800240024 per intervenire, per parlare col dottor Burdo, avete fatto bene. Oggi cerchiamo di trovare un po' una spiegazione ad alcuni dei disturbi più classici che avvertiamo a livello proprio del nostro orecchio, e parliamo e abbiamo parlato di acufene, quindi ronzii, fischi, cascatelle, sibili, e parliamo anche di vertigini. Ma prima di affrontare questo tema voglio dare la parola a Sirio, a Patrizia e a Mauro. Sirio, buongiorno, ci chiama da Milano, 800 24 00 24, voilà, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Senta, io ho un problema praticamente recente. Io ho fatto un incidente stradale a dicembre. Sì. E mi è capitato appunto un'anacusia improvvisa. Io non sento assolutamente più nell'orecchio sinistro. Sì. Scusi, destro. Mm. E questo tra l'altro mi creerà anche dei problemi, perché io lavoro in televisione e usiamo le cuffie. E certo, lo so. Io volevo sapere, visto che parlate di coclee elettroniche, bioniche, eccetera, se c'è la possibilità di recuperare il mio udito in un futuro prossimo o già adesso. Grazie Sirio, giriamo subito la domanda al nostro esperto, dottor Burdo. Mi piace molto questa domanda, perché questa è la vera novità clinica degli ultimi 2 anni, ovvero l'impianto cocleare nelle sordità monolaterali, quelle che si chiamano tecnicamente anacusie. E attenzione, in questo caso va a braccetto la terapia per l'acufene, cioè chi diventa sordo in un orecchio spesso, al di là del deficit uditivo, lamenta veramente un acufene invalidante, perché tanto sordo, tanto acufene per intenderci. Sostituendo la coclea con una coclea artificiale, cioè con un impianto cocleare, questi pazienti ottengono subito un beneficio. Quindi l'impianto cocleare si è allargato come indicazione non solo alle sordità bilaterali, ma oggi anche a queste forme di patologia dell'udito, cioè alle sordità monolaterali invalidanti, perché complicate da un'acufene. Quindi il paziente sicuramente Sirio, la possibilità di riottenere l'udito. Ci sono dei tempi che conviene non superare. Sirio ci ha detto, ho avuto un incidente a dicembre, sono passati pochi mesi. Guardi, una cosa importante in questi casi, come sempre, è la motivazione. Cioè questa è una terapia non tanto per la vita, ma per la qualità della vita. Quindi il paziente deve essere motivato a farlo, anche perché è un intervento chirurgico, insomma non è una passeggiata, non è neanche una cosa così, come si può dire, molto coinvolgente, ma in realtà è sempre un intervento. Quindi aspettare qualche mese, verificare se il disagio permane, se è ancora importante, lui ha la soluzione, che è uno, come lei ha sottolineato, una delle novità degli ultimi 2 anni. La nuova indicazione di piatto cocleare è proprio la sordità monolaterale. Abbiamo parlato di impianti cocleari, come anticipato parleremo anche di protesi acustiche. Vi aspetto a partire dalle 12.10 per affrontare, insieme anche alla dottoressa Nardi, vice coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato, dei costi relativi di questi dispositivi. Intanto andiamo a Patrizia e poi a Mauro da Treviso. Patrizia, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo chiedere due consulenze veloci. Una mi sembra che già in parte avete risposto, che era: io soffro di bruxismo e volevo avere la conferma se, oltre a rovinarmi i denti con questo bruxismo, mi rovino pure l'udito. E l'altra è che io sono un'attrice di prosa e d'estate lavoriamo all'aperto e talvolta quasi solo in quelle circostanze sento i condizionatori, anche se non ci sono, sento all'aperto che poi ho curato, il mio otorino mi ha dato degli antinfiammatori e si è risolto, però periodicamente ogni tanto mi ritorna, soprattutto d'estate. Volevo sapere se l'umidità, appunto parrucche, cose, sudare eccetera, può influenzare anche questo disturbo. E perché solo d'estate? Patrizia, che cosa porterà in giro quest'estate, lei che è un'attrice? quest'estate probabilmente facciamo l'avaro di Molière. Molière, magnifico. Allora, dottor Burdo, ma vede chi incontra a Radio 24, a Cuore Denari? Assolutamente. Gente che lavora in televisione, attrici, teatrali. Beh, mi sono fermata qua, mi aspettavo che lei dicesse poi c'è la Nico. No, non l'ha detto. Assolutamente sì, lei lo sa qual è non solo l'affetto ma anche l'ammirazione per lei. Lei è un'ottima comunicatrice perché è una delle poche conduttrici che parla a 50-60 parole al minuto, quindi comprensibile da tutti. Lei sa come la penso su chi parla a mitraglia, e lei invece è un'ottima conduttrice. La paziente, la signora, che l'attrice parlava di un fruscio che lei sente, ma qui può essere, può entrare anche in gioco la dimensione del condotto uditivo esterno, che è come che è un canale, può essere ampio o stretto e quindi convogliare il vento in un modo piuttosto che in un altro, e quindi produrre dei vortici all'interno dell'orecchio che possono essere la causa. Dico io, bisognerebbe visitarla, però mi viene in mente questa possibilità. Però non è che se mette i tappi non li sente. E questo è il punto, mi dovrebbe provare. Allora Patrizia, diciamo, Patrizia, proviamo con i tappi e poi ci fa sapere. E intanto noi andiamo a Treviso perché c'è Mauro. Buongiorno Mauro, benvenuto. Sì, buongiorno Nicoletta. Buongiorno, buongiorno dottore. A me capita invece, ho un problema di vertigine quando prendo l'aereo. Sì, lo prende spesso Mauro? Purtroppo no, perché devo viaggiare in bagno e non posso viaggiare nei sedili, proprio per il motivo che spesso ho la vertigine. Mi capita che all'altezza di 10.000 metri, 9.500 metri, non riesco a compensare con l'orecchio sinistro, quindi pur mangiando un chewing gum o cercando di fare insomma dei gesti, aprendo e chiudendo la bocca come è stato insegnato, e di conseguenza a un certo momento per me l'aereo inizia a cadere, quindi inizia a girare e sono costretto a scappare in bagno perché effettivamente ho senso di vomito. Quindi questo effettivamente mi limita perché avendo 44 anni non posso girare il mondo proprio perché non può girare il mondo spostandosi in bagno, no? Volevo, allora, dottor Burdo, grazie Mauro, dottor Burdo, lei ha un minuto. Ma può essere, beh, intanto assolutamente una visita perché nulla di grave, però può essere gestibile perché la chiusura di una tuba, questo avviene quando si sente dolore salendo in aereo, quando si arriva a una certa altitudine, cabine non ben pressurizzate e così via, provocano una chiusura repentina della tuba, aumenta la pressione esterna. Il timpano viene introflesso dalla pressione esterna perché non è più compensato dalla tuba che apre la pressione interna all'interno dell'orecchio medio. Questo può provocare un infossamento degli ossicini nell'orecchio interno, abbiamo detto vestibolo fratello della coclea, ecco che insorge la vertigine. Può esserci una fistola. Allora, ecco perché vale la pena andare a farsi vedere dall'otorino. Sì. Ne parleremo tra poco, dopo il GR. Dottor Burdo, potrebbe esserci un legame tra vertigine e intolleranze alimentari? Direi di sì. Aspettiamo. Ecco, allora parleremo anche di questo. Se vi era venuto questo dubbio, forse ci avevate preso. Intanto GR, torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Chi è? Orecchio. Ah, dottor, c'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sera. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, lo chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ah, dottor, ma orecchio mica è questo. È quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio. Lavaggio. Lavaggio. Col sapone. Bisogna lavarsi le orecchie tutti i giorni con il sapone, senza infilare dentro particolari o pericolosi bastoncini. Dottor Burdo, prendiamo spunto da questa clip del grande Albertone. I bastoncini rimandano il cerume all'interno, quindi non solo non lo tolgono, ma peggiorano la situazione. Quindi un dito, un po' di sapone, acqua, poi ci si asciuga bene e le orecchie sono pulite, non hanno bisogno d'altro. E l'angolo del fazzoletto, come si usava una volta. Coni di cera? Bah, assolutamente, questo è puro masochismo. Non ci piacciono, dottor Burdo. No, perché sono pericolosi, ma combina pasticci, delle cose in civili. Questa è la manutenzione del nostro orecchio, insomma ci vuole poco e ci vuole anche poco per danneggiarlo. E in questa seconda parte della trasmissione diamo ancora due indicazioni sulla vertigine, che come abbiamo detto a volte si accompagna con l'acufene e è ugualmente invalidante, può capitarci all'improvviso quando ci alziamo dalla sedia, ci abbassiamo per raccogliere qualcosa, cambiamo rapidamente direzione o posizione, ci giriamo nel letto e cosa succede? Che il mondo intorno a noi si mette a girare, o al contrario abbiamo la sensazione che a girare siamo noi. Come per l'acufene, anche per le vertigini c'è il rischio di passare da un medico all'altro senza trovare una soluzione. Dottor Burdo, diamo delle indicazioni molto semplici e chiare. Ma intanto bisogna distinguere le vertigini dall'instabilità. La vertigine vera è quella dove il mondo gira o noi giriamo, come quando si balla il valzer, sì, o quando si fa il girotondo. Quella è la vertigine. L'instabilità invece è come quella quando abbiamo molta fame, ci sentiamo svenire, siamo deboli. Abbiamo le gambe molli. Abbiamo le gambe molli, quelle che fanno Giacomo, come diceva lei prima. Sì. Allora, la vertigine vera generalmente è legata... Le tre cause principali sono o la sindrome di Menier, di cui abbiamo parlato prima, sì, ovvero sordità, acufene e vertigine. Attenzione, che si ripete nel tempo. Molte persone purtroppo hanno queste che loro definiscono labirintite, che si ripetono anche due o tre volte all'anno, ad alcuni addirittura invalidante. Va avanti, cioè si ripete tutte le settimane. Allora, in questi casi, a male estremo, estremo rimedio, se la terapia medica non produce effetti, terapia chirurgica. Io anche in questo caso sono favorevole a un impianto cocleare nell'orecchio causa della vertigine, perché oltre a ripristinare l'udito, molto spesso riusciamo anche a eliminare le vertigini. Quindi una nuova indicazione all'impianto cocleare è la sindrome di Menier invalidante, cioè quella che non guarisce per intendersi. Poi la seconda causa di vertigine generalmente è quella che si chiama la neuronite, un virus maledetto che generalmente nei mesi dicembre e gennaio, quindi con il freddo, tipo virus dell'influenza, che provoca un blocco vestibolare, cioè blocca completamente il vestibolo, lì una vertigine acuta, si sta male, si vomita, si sta a letto 3 o 4 giorni, però generalmente questo con il tempo va a posto. Insomma, quando il vestibolo prende l'influenza, diciamo così. Quando il vestibolo prende l'influenza. Poi la terza, che è quella più frequente, che va anche un po' di moda, le cose frequenti poi spesso vanno di moda, che sono le otolitiasi, le cupololitiasi, ovvero quei sassolini che ci sono all'interno del vestibolo, che come la ghiaia sono ben disposti in forma su un pavimento proprio delle cellule ciliate dell'apparato vestibolare, che per una causa qualsiasi si spostano. Questo spostamento non legato a un movimento causa un firing, un'attivazione del nervo vestibolare, nasce una vertigine che non dovrebbe nascere. Queste generalmente sono vertigini posizionali, cioè girando la testa, mi giro nel letto, faccio un salto, una vertigine violenta che dura pochissimi secondi. E questa sono la colpa di questi sassolini che si sono... E di questi sassolini. Allora, qui la terapia è una terapia che dà molte soddisfazioni, perché basta fare delle manovre particolari per rimettere in posizione questi sassolini. È come rimettere a posto la ghiaia con il rastrello, per intenderci. La più famosa è la manovra di Chemont, che è stato il primo a descriverla, un francese molto esperto di questa patologia. Oggi la maggior parte degli otorini è in grado di farla. Questo tipo, sì, assolutamente. Dottor Burdo, intanto voglio salutare la dottoressa Sabrina Nardi che ci ha raggiunto. Buongiorno, avevo un appuntamento con noi, dottoressa Nardi. Buongiorno. Intanto ricordo che è vice coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato, con cui affronteremo anche un tema molto importante relativo alle protesi acustiche, quindi sono soprattutto gli aspetti relativi ai costi di questi dispositivi. Dottoressa Nardi, siamo subito da lei, perché naturalmente resterà con noi anche il dottor Burdo, a cui chiedo però di raccontarmi quale possibile legame esiste tra la vertigine e un'intolleranza alimentare. Noi solitamente diamo spesso la colpa a quello che mangiamo e adesso però che ci sia una relazione tra quello che mangiamo o una sensibilità particolare in questo caso ad un alimento e l'organo dell'equilibrio è difficile un po' da capire. Mi aiuti? Però Vox Populi, Vox Dei, diceva, certo. E molti specialisti negano questa correlazione. In realtà nelle idropi endolinfatiche, poi spiego che cosa sono, che sono la causa della sindrome di Menier, ripeto, acufene, sordità e vertigine che si ripete più volte nel tempo, sì. È legato a un aumento dei liquidi, una specie di edema dell'orecchio, chiamiamolo sì. Così, un aumento dei liquidi, e quindi noi riusciamo a capire che il fatto acuto è legato a questo incremento improvviso di liquidi. La causa che provoca questo incremento dei liquidi può essere svariata, possono essere svariate, ad esempio una modificazione ormonale. Molte signore in fase premestruale soffrono di sindrome di Menier perché il loro equilibrio ormonale viene a essere alterato e questo provoca una ritenzione di liquidi all'interno dell'orecchio per una serie di motivi e scatena una crisi. Ma anche un'intolleranza alimentare. Io ho dei pazienti che sicuramente hanno avuto delle crisi menieriche legate a un'intolleranza alimentare. Ricorderò per sempre un paziente che aveva un'intolleranza al riso e prezzemolo. Mangiava riso e prezzemolo, dopo un'ora e mezza, questo signore aveva un attacco di labirintite, chiamiamola così, sì. Quindi di vertigine acuta, violenta. Capirlo è stato un po' difficile. Proprio il riso col prezzemolo, non quello giallo alla milanese, ma qua col prezzemolo. Riso col prezzemolo, mangiava riso e prezzemolo, stava male. Stava male nel senso non che aveva mal di stomaco, aveva proprio la vertigine sì. Associata ovviamente alla nausea e al vomito. Per cui, siccome non costa nulla verificare una possibile correlazione, tutte le volte che io mangio i pomodori succede questo. Frequenta ad esempio l'associazione vino Chianti con il formaggio grana, per una serie di motivi anche questo. Vino Chianti e formaggio grana a rischio vertigine? Rischio vertigine perché le due cose associate provocano una reazione di un certo tipo. Provate a fare, non rinunciateci, ma provate a fare delle combinazioni alternative. Che ne so. Adesso magari qualche nostro ascoltatore ci manda qualche abbinamento. Col Chianti sposiamo, mentre con il parmigiano, scriveteci pure al 349-238-6666. Questo per dire, dottor Burdo, che è opportuno se soffrite di vertigini e se soffrite frequentemente, fare mente locale, come si dice, a quello che avete mangiato. E se la situazione ritorna, evidentemente potrebbe esserci una relazione. Come il famoso riso al prezzemolo del paziente del dottor Burdo. Altre combinazioni a rischio vertigini? Guardi, difatti da sempre l'otorino consiglia ai menierici di non mangiare crostacei, di non mangiare cioccolato, di bere poco caffè e di non mangiare le noccioline piuttosto che queste cose da aperitivo, per intenderci. È perché secondo me molti pazienti avevano avuto delle intolleranze, quindi certo. Crostacei, cioccolato, caffè, tè e noccioline. E poi nel caso quell'abbinamento che adesso lei che ci ha anticipato, Chianti e parmigiano. Sì. Aspettiamo sì. Delle vostre combinazioni alternative al 349-238-6666, se arrivano ve le leggerò. E intanto affrontiamo con la dottoressa Nardi il problema dei costi. Dottoressa Nardi, ci sono delle situazioni in cui il l'otorino suggerisce al paziente scrive al paziente una protesi. Facciamo il caso, il dottor Burdo mi prescrive una protesi, io ho la diagnosi e questa prescrizione, che cosa faccio per essere esente dal pagamento? Allora, intanto bisogna accertarsi di avere le condizioni per ottenere questa protesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la prima cosa è verificare se si ha una percentuale di invalidità civile pari almeno ad un terzo, quindi almeno il 33,3%, diciamo 34%, e sia presente nel verbale la dicitura ipoacusia tra le cause invalidanti. Dopodiché, qualora la persona avesse ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, ovviamente è necessaria la prescrizione di un medico che non deve soltanto essere uno specialista, ma nella maggior parte delle regioni viene richiesto, anzi nella totalità delle regioni viene richiesto che la prescrizione avvenga da un medico specialista di una struttura pubblica o convenzionata. abbiamo verificato alcune restrizioni da parte di alcune regioni che richiedono solo la prescrizione da parte di strutture pubbliche e non quelle convenzionate. Quindi lo scenario è piuttosto variegato sul territorio nazionale. E voi avete voi avete fatto un'indagine sulle difficoltà di accesso alle protesi e agli ausili, vero dottoressa Nardi? Esatto, abbiamo verificato qual è l'ostacolo burocratico che incontra la persona e dalla nostra indagine emerge che ci sono delle realtà che noi abbiamo anche premiato, che richiedono solamente un passaggio, quindi la presentazione della richiesta del cittadino presso l'ASL, mentre si arriva anche a dover fare 4 o più passaggi nel 20% delle realtà che abbiamo segnalato, e quindi questo significa che per la persona c'è un andirivieni verso l'ASL. Lei avete individuato delle regioni più virtuose che hanno un po' snellito queste procedure? Allora, in realtà ci sono alcune realtà, parliamo più di ASL che sì, regioni, cui, certo. Questo è più facile. Noi abbiamo premiato 3 anni fa una ASL che ha preso proprio a cuore questo tema, che è l'ASL di Torino, Torino 1, che ha messo a punto questo progetto Facciamo girare la carta e non i cittadini, proprio per indicare che per le persone dovesse essere molto semplificato l'accesso alle protesi e agli ausili, e quindi un solo passaggio, presentare la documentazione, tutto viaggia in maniera informatizzata fino a quando la persona ha diritto alla protesi e all'ausilio. E a proposito di protesi, l'abbiamo anticipato, volevamo parlare di questa anomalia tutta italiana. Sappiamo che esiste un nomenclatore tariffario, che è una lista del Ministero della Salute che regolamenta prezzi e tipologie di protesi e ausili per disabili. Il problema è che il prontuario, che è nato nel 99, non è stato mai aggiornato. Dottoressa Nardi, questo naturalmente comporta una serie di problemi. Esattamente, purtroppo è un nomenclatore vetusto, a dir poco, difficile da consultare, ma soprattutto bisogna anche ricondurre le nuove tecnologie e anche i nuovi dispositivi a quello che è presente in quel nomenclatore. E in realtà, per quel che riguarda gli apparecchi acustici, diciamo che questa attenzione fortunatamente c'è, per cui le persone che vogliano e abbiano bisogno di usufruire di protesi o di ausili, con un meccanismo di riconduzione, riconducibilità, così viene detto, sulla base della prescrizione da parte dello specialista, che deve indicare non la marca dell'ausilio, ma deve indicare le caratteristiche che deve avere, si fa una riconduzione a quello che è presente nel nomenclatore e si eroga un dispositivo. Il problema qual è? Che in realtà molto spesso, per avere quello che è più innovativo e che magari risponde meglio alla persona, bisogna pagare la differenza di costo tra quello che pagherebbe la ASL e quello invece di cui abbiamo bisogno. Infatti un ascoltatore mi scrive: l'ASL fornisce solo una tipologia non sufficiente per l'udito di mio padre, che fare? Lo chiedo alla dottoressa Nardi se ci sono delle indicazioni, e poi naturalmente al dottor Burdo, che si sarà trovato in questa condizione con un paziente che sarà tornato da lui dicendo: ma l'apparecchio che mi dà l'ASL non è adatto al mio problema. Dottoressa Nardi. Allora, è proprio la procedura, è quello che dicevo. Cioè si paga la differenza. Deve pagare la differenza, questo è quello che non attualmente la normativa prevede. Dottor Burdo? Guardi, lei sta sfondando una porta aperta. Un portone! Guardi, è una cosa incredibile questa. Noi abbiamo fatto delle leggi fantastiche negli anni 80, tra cui 80-90, tra cui il nomenclatore tariffario. Abbiamo abolito le scuole speciali per i sordi. Cioè, abbiamo fatto tutta una serie, e da allora non è più stato fatto nulla, non è stato più aggiornato nulla, per cui non esistono più le protesi descritte nel nomenclatore tariffario, non esistono più, quindi in ogni caso lei deve dare una cosa diversa, deve prescrivere, non esistono. E quindi il paziente deve pagare un supplemento, perché, ripeto, quelle protesi lì non è che non vadano bene al paziente, attenzione, non esistono. E la cosa è molto diversa. È diversa. Assolutamente. Per cui non c'è stato non solo l'aggiornamento dei prezzi, ma non c'è stato, come diceva la collega prima, non c'è stato l'aggiornamento della tecnologia. Non ci sono descritte, non sono descritti i prodotti che oggi sono disponibili, sono descritti i prodotti di 20 anni fa. Questo è pazzesco, perché noi siamo, attenzione, ho detto siamo, ed eravamo all'avanguardia su questo aspetto di welfare per quanto riguarda la sordità, ma direi che è ora di finirla nel non aggiornarci. Questo è il punto. L'aggiornamento è indispensabile. Dottor Burdo, con la sua associazione, a proposito di protesi, avete organizzato, mi sembra, una bellissima iniziativa. Sì, e qui è un problema di spending review, perché questi ci parlano continuamente, adesso non voglio fare il contestatore, però ci parlano di spending review quando, le faccio un esempio, un ragazzino che ha un impianto cocleare con un sistema FM. Un sistema FM è un sistema, un accessorio che permette di sentire nel rumore. Che non viene dato ad esempio a un anziano perché non ha i requisiti. Ora, quando io sostituisco questo sistema per aggiornamento al ragazzino, il vecchio sistema che funziona ancora ed è attivo, può essere utilizzato, viene tenuto nel cassetto. Allora, l'associazione Liberi di Sentire, e la trovate sul web a liberidisentire.com, no scusi, ecco, punto ho it, sentito, ho detto it. Sarà punto it. Stiamo organizzando la raccolta di tutti quei sistemi, non che non funzionano, sono sistemi assolutamente funzionanti che costano delle cifre incredibili peraltro. Lei pensi che un processore per impianto cocleare costa 10.000 euro, se io devo far sentire meglio un bambino gli prescrivo un nuovo processore, ma quello vecchio funziona per un altro. Per un altro, certo. Se poi non lo diamo un altro lo daremo ai paesi in via di sviluppo, non si buttano via le cose. Mi sembra una bellissima idea, chiedo conferma anche ai nostri ascoltatori se vogliono sposare questa idea, insomma sosteniamola. Luigi da Lecce, buongiorno, siamo quasi buongiorno in chiusura, il tempo della sua domanda. Ok, io da 7-8 anni che ho problemi con l'udito, sono andato dal dottor Cuda, fatto delle visite e loro mi prescrivono sempre due apparecchi, solo che l'ASL, essendo invalido al 100% per altri problemi, l'ASL non mi ritiene invalido per le orecchie e questi apparecchi costano 6.000 euro l'una, 6.000 euro tutti e due. Per sapere il costo reale, perché sono stato dall'Amplifon, sono stato da un altro che adesso non le viene in mente. Che io quando parlano più persone non sente, ho della grande confusione e non riesco a capire niente. Allora, dottoressa Nardi, un iter per Luigi. Che cosa deve fare? Abbiamo veramente 30 secondi. Io suggerirei di fare integrare il riconoscimento dell'invalidità civile con quella dicitura che dicevo prima, cioè far accertare l'ipoacusia. E questo le darà diritto anche ad ottenere le protesi di cui ha bisogno gratuitamente, o perlomeno averne pagata almeno una parte, che è quello che rimborserebbe l'ASL, e pagare la differenza, che non sono però 6.000 euro. Quindi la strada c'è. Luigi, nel caso ci scriva, ci faccia sapere. Ringrazio la dottoressa Nardi per essere stata con noi. Grazie, alla prossima. Grazie, dottoressa. Il dottor Sandro Burdo, mi dica bene l'indirizzo di liberidisentire.it. Ok, abbiamo stiamo organizzando, stiamo superando questo momento burocratico che ci sta rallentando un po', ma io penso che prima dell'estate avremo a disposizione una banca protesi da utilizzare per chi ne ha bisogno. Grazie, noi ci sentiamo presto per ulteriori aggiornamenti, quindi dottor Burdo, la ringrazio, alla prossima e noi ci sentiamo domani. Vi aspetto, buona giornata.